Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire ai nostri ospiti, Trick or Treat. Allora, qua giochiamo a tombola. Sono 98.6 per la bassa veronese e zona della Lessigna e 101.5 per Verona città e rimanente provincia. 91.5 per la zona Lago di Garda e 94.7 per la Valpolicella. Radio RCS si può ascoltare anche in web streaming dal sito www.radiorcs.it. Che dire, stay tuned. Ok, dalla new wave of British heavy metal, rimanendo sempre negli anni 80, passiamo alla sponda americana e canadese, che aveva altre sfumature musicali dai toni più melodici. Prima canzone dei Riot, band newyorkese, il cui unico membro stabile è da sempre il chitarrista Mark Reale. Dal disco Restless Breed del 1983 ci siamo ascoltati Hard Loving Man. Si dice che i Riot abbiano dato un grande contributo alla formazione del power metal moderno. Siete d'accordo? Sì, guarda, io sono pienamente d'accordo. Io ho già ascoltato qualcosa loro, più che altro sul finire degli anni 80, con Thunder Steel, The Privilege of Power. E ti dirò, erano anche parecchio attuali, perché The Privilege of Power... È uno dei primi album che, secondo magari chi ascolta power metal così, è uno dei primi album che era un concept in realtà sullo strapotere dei media, cosa che sta tornando in voga adesso. Quindi, per essere, no, cos'era, il 90 mi pare, quindi certo. Erano già abbastanza avanti, insomma. E sono stati comunque uno dei primi gruppi a fare i concept, dal mio punto, almeno che io ricordi. Guardare me, i primi gruppi power fare queste cose. Bene. Teen Soldiers è il titolo del vostro disco. Qual è il significato che sta dietro queste due parole? Non sai l'inglese. No. Teen Soldier vuol dire Tino Soldino. No. Vuol dire soldatini di piombo. È una canzone che ho scritto io proprio agli inizi. Canzone vecchia, 2004 parliamo. Sì. Solo che per varie decisioni di scalette del primo disco... varie cose, sono deciso di metterla, sempre di posticiparla, e come titolo in effetti stava bene per un disco Teen Soldier. L'argomento tratta, è una via di mezzo tra la fiaba di Andersen, dell'esotico di piombo, e la... Certo. Cosa ride questo qua? Se non lo so io. Ah, mi viene in mente Christian Troccolo. Questo qui, vabbè, com'era? Vabbè, c'è sta. Insomma, io cercavo di fare serio, però qua non ci riusciamo. Non si può. Il Canada è sempre stata terra di rock e metal band originali e più inclini a subire numerose influenze. I Triumph di Mike Levine e Rick Emmett escono nel 1980 con il disco Progressions of Power, che contiene la canzone Tear the Roof Off. Anni di storia, dischi d'oro, eppure questa band non è tanto conosciuta da noi, forse è schiacciata dal confronto da Coi Rush. Voi cosa ne pensate? Ma guarda, secondo me forse anche il problema è che in Italia o comunque in quegli anni lì c'era anche un bel po' di scena prog italiana, secondo me, forse, almeno si stava un po' dissuadendo, perché ormai era l'80, siamo messi così, però boh, non lo saprei. Ritano. No, beh, quella era una scena. Non era proprio per un'altra prog, scena, dai. Era Cog. Cog. E allora, tra le vostre maggiori soddisfazioni ci sono sicuramente da segnalare la tournée in California nel 2007. Quali esperienze stupende avete tratto da questa avventura musicale? Hai parlato di avventura, hai fatto molto bene. Esatto. Effettivamente è stata un po' un'avventura. Nel senso che siamo partiti assieme anche un'altra band veronese che salutiamo, i Sin Circus. Ciao Sin Circus. Ciao. E niente, siamo partiti un po' così, perché avevamo in teoria un sacco di date che dovevamo fare, poi in realtà ne abbiamo fatte 6, gloriose, però 6, insomma, su una quantità che doveva essere maggiore sicuramente, però ci siamo molto divertiti, questo sicuro. E tipo, boh, non so. Mi ha rotto uno specchio in un albergo. Albergo, non è l'albergo, no, la casa di una ragazza che abbiamo conosciuto lì. È stato più le avventure fuori che sul palco, diciamo. Sì, sì, sì, fa molto rock and roll, dai. Sì, quello sì. Sì. Io organizzano dei party abbastanza clandestini. Poi là sono matti per i musicisti. Appena vedo uno che ha i capelli lunghi così, ti regalano i gadget, tirano fuori le tette. Matti. Ai ai ai. In California. Sì, sì, sì. Pazzesco. Chiudiamo allora la seconda parte con i Van Halen, alle domani dell'uscita di David Lee Roth. Entra il talentuoso Sammy Hagar, che dal primo disco 51-50 fa capire di non voler far rimpiangere il precedente vocalist. Da quel disco la canzone Dreams. Noi ci ritroviamo dopo la pubblicità con i Trick or Treat, che ci faranno ascoltare 6 brani dal disco Teen Soldiers. Non mancate. We'll be right back.